Buonasera, buonasera a tutti, questa è Radio Live Session. In diretta ci sono io, Electroshock. Dopo di me ci sarà ospite, special guest, Bruno Power. Buon ascolto. 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. From the air. Hello.

ora andiamo con i primi saluti. Un saluto a Queen da Tao di Biella, un saluto a Maugi di Modena, un saluto a Diego Styler, un saluto a Ile di Vercelli, un saluto a Tania. Buon ascolto. We'll be right back. We'll be right back. Option A, you talk, you listen, no pain. Option B, you don't talk, it will hurt. Option C, I like to vary the details a bit, but the punchline is, you die. Dei saluti, un saluto a Serena di Roma, un saluto a Matteo di Susa e un saluto speciale a Claudia. Ciao! special guest Bruno Power, From Soft.